cosa sai cosa fare. Prendi coscienza della disoccupazione, ti cerchi una casa, ti cerchi un lavoro. L'indipendenza ormai sarà pana, fa il servizio di leva con grande onore. L'anno seguente sei ancora per strada. Rivoluzione, oi oi oi, per la nazione. Oi oi oi, rivoluzione, oi oi oi, per la nazione. Rivoluzione!